Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cesare Battisti è stato uno sporco assassino, punto e basta. Troppo comodo pensare che al momento dei fatti era giovane e che durante gli anni è cambiato. Cosa vuol dire? Che muoia pure col suo digiuno. Non capisco. Fioravanti ha pagato perché è di destra e Battisti non deve pagare perché è di sinistra? Vuol dire forse che inconsciamente gli italiani dovrebbero essere tutti di sinistra, volenti o nolenti? Giuseppe. Come mai su Wikipedia alla voce Cesare Battisti è stata messa una recentissima foto ad altissima risoluzione fatta con una fotocamera da migliaia di euro che lo ritrae con aria sofferente durante lo sciopero della fame? Tentativo di orientare l'opinione pubblica? Lettera firmata. Questa balla incredibile dell'imparzialità dei giudici mi fa impazzire. Ma oggi in Italia, con Berlusconi il presidente del Consiglio e con tutto quello che su di lui si dice e si scrive, come fa una persona sana di mente a non essersi fatta un'opinione favorevole o sfavorevole nei suoi confronti? Cosa vuol dire imparzialità? Nessuno ad oggi può essere imparziale su Berlusconi, se per questo si intende non essere né pro né contro di lui. Allora forse non dobbiamo giudicarlo? O deve essere giudicato solo da giudici a favore? Che cosa significa star lì a sindacare che i giudici abbiano delle opinioni politiche e le esprimano? Ma dove lo troviamo, un giudice imparziale? E se lo troviamo, e se esiste, che uomo è un uomo senza opinioni? Non si possono accusare i giudici così, per un brindisi, per un calzino o perché erano a una manifestazione. Che si portino le prove delle procedure infrante, degli illeciti o degli abusi, oppure si stia zitti. Altrimenti diventa un delirio di massa. Pietro. Belgio, Danimarca, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Olanda e Svezia sono paesi ad alta uguaglianza sociale. Molti di essi sono governati da coalizioni a prevalenza socialdemocratica e godono di un diffuso benessere ed efficienti sistemi sanitari e scolastici. Comun denominatore, la monarchia. Un rientro dei Savoia in Italia, dato il loro scarsissimo prestigio nazionale, sarebbe impensabile. Una socialdemocrazia, però, il PD e il buon Bersani potrebbero ugualmente prenderla in considerazione. Così, tanto per evolversi e potersi definire finalmente ex comunisti. Enzo. Per quanto mi riguarda, non ne posso più di sentire politici di destra, di centro e di sinistra che parlano di tutto e di niente, forse per non dover affrontare le cose importanti. Del resto, questo nuovo modo di fare politica, parlando appunto del niente, ha sostituito il vecchio calcio di una volta, che veniva definito la droga del popolo. Non sento nessuno parlare della riduzione delle tasse per pensionati e dipendenti, o dei benefici per chi ha figli, magari piccoli. Eppure mi pare che questo rientrasse nel programma elettorale. In particolare, nessuno ricorda che alla fine del precedente governo Berlusconi affermò che non aveva fatto in tempo a ridurre le tasse. Però, finora, niente. Non ci sono soldi. Ma è stato fatto lo scudo fiscale per far slittare l'IRPEF, ovviamente solo per le partite IVA. Scudo fiscale che è stato utile anche per gli agricoltori, ma non si poteva pensare a una riduzione di 1 o 2% dell'aliquota IRPEF anche per i comuni cittadini? I commercianti e le piccole imprese, ma a volte anche le grandi, si lamentano che noi cittadini non spendiamo e quindi loro non possono andare avanti. Però nessuno abbassa i prezzi. Forse siamo arrivati alla resa dei conti, soprattutto per chi è nel commercio. Con l'entrata dell'euro sono raddoppiati i prezzi, ma non gli stipendi. Prima o poi si doveva arrivare a questo punto. Forse sarebbe il caso che in questo momento di crisi i prezzi venissero abbassati. Andrea. Caro direttore, ho sentito qualche giorno fa alla vostra radio l'intervento del signor Cucinelli, amministratore delegato dell'azienda d'alta moda Solomeo. Devo dire che condivido pienamente il suo modo di pensare per quanto concerne la gestione di un'azienda. Anch'io, nella mia piccola azienda, ho visto negli occhi dei miei ragazzi la preoccupazione che li affligge e ho capito che avrei potuto fare due cose: fregarmene di loro e praticare nei loro confronti alcune forme di ricatto, oppure ritentare la carta del dialogo. Per esempio tenendoli al corrente degli andamenti di ordini, pagamenti e quant'altro. Questo secondo metodo, che è lo stesso adottato da Cucinelli, io lo avevo già tentato in tempi migliori, ma con scarsi risultati. Ma ora questo approccio ha dimostrato la sua validità, perché in azienda c'è una maggiore qualità del lavoro e di conseguenza migliori risultati. Rimane solo da scoprire se questa maggiore produttività derivi solo dal fatto che i miei collaboratori hanno paura ad affinare le armi, o se si tratti veramente di una presa d'atto che lavorare bene e in sintonia comporta la stessa fatica che lavorare male e svogliati. Perché, a parer mio, il vero problema del lavoratore è che vede il proprio lavoro come un obbligo per campare. La maggior parte dei lavoratori non tenta di fondersi con il proprio lavoro e da questo derivano improduttività, disattenzione e scarsa qualità del lavoro. Tutte cose che si possono risolvere solo con un po' di professionalità in più. La stessa produttività che i miei dipendenti mettono ora nel lavoro per paura della perdita del posto. Rudy. In seguito agli scontri con la polizia avvenuti durante le manifestazioni studentesche dei giorni scorsi, alcuni presidi hanno proposto di dare un 5 in condotta, con conseguente bocciatura a fine anno, agli studenti che durante queste manifestazioni occupano le scuole. Vogliamo scherzare? In un paese dove l'adolescenza dura fino a 30 anni e c'è sempre uno psicologo molto comprensivo pronto ad aiutare questi studenti, sarà tanto se non riceveranno una medaglia per quello che hanno fatto. C'è da chiedersi se non andranno a finire in qualche reality o se scriveranno libri o concederanno lunghe interviste, il tutto ben remunerato. In un liceo del Nord-Est molti anni fa ho dovuto fare il 30% di lezioni in meno in un anno perché i giovani virgulti erano sempre in assemblea. Per la verità si trattava di 40 individui che ne condizionavano 400, purtroppo. Ero disposta a fare lezioni in qualche parco pubblico, ma i ragazzi mi dissero che avevano paura e un collega anziano mi disse che molti genitori avrebbero potuto non essere d'accordo perché i loro figli dovevano fare esperienze e imparare a prendere decisioni. Tra le righe era come dire che la cosa più importante era che la loro estate fosse libera da impegni scolastici. Furono tutti accontentati e i risultati di tanto comprensivo psicopedagogismo ce li dice l'OCSE con il programma PISA di valutazione del livello scolastico dei vari paesi industrializzati. Non mi consola che il nord sia a livelli europei e il centro-sud a livello della Colombia. Quei poveretti hanno il narcotraffico e la guerra civile, ma noi? Il divario nord-sud si allarga sempre di più. Nonostante tanti begli esempi, chi provvederà a riempire il baratro? Sono angosciata. Mariangela. I casi di decessi in Italia da virus H1N1 sono ad oggi 62. Tutto sommato molto pochi rispetto ai decessi dell'influenza stagionale, che sono alcune migliaia all'anno. Ciò nonostante, bisogna osservare che la Campania conta circa l'8% della popolazione italiana, ma quasi il 50% dei casi di decessi ad oggi, e la tendenza non accenna a cambiare. È necessario chiedersi come mai. Certo, in Campania, oltre a questo anomalo primato, ne abbiamo anche altri, come ad esempio quello di essere la regione più inquinata d'Italia. In Campania sforiamo continuamente i limiti massimi per le polveri sottili. Abbiamo discariche abusive praticamente ovunque, dalla Bocca del Vesuvio alla Grotta Azzurra. Abbiamo amianto disperso in ogni dove, tanto che nella fascia costiera del Vesuviano i tumori all'apparato respiratorio sono aumentati del 50% in pochi anni. La diossina rende finalmente oggi le nostre mozzarelle famose in tutto il mondo, come mai siamo riusciti a fare prima. Il Sarno è il più lungo canale di scarico d'Europa. Le nostre coste sono utilizzate per costruire depuratori e insediamenti industriali per facilitare lo smaltimento in mare di liquami non trattati. Con il benestare e i complimenti dei nostri amministratori, eccetera. Ma sarà solo una coincidenza? Alessandro. Gentile direttore, ho letto un libro scritto da esperti studiosi dell'Istituto dei Tumori di Milano e ho appreso che il 30% dei malati di cancro avrebbe potuto evitare la malattia se si fosse alimentato in modo corretto. Nel testo sono elencati alcuni cibi più o meno responsabili nello scatenare la cellula cancerosa nel nostro organismo. Se sappiamo scientificamente che alcune sostanze fanno venire il cancro, perché il Ministero della Sanità non le toglie subito dal commercio? Se la nicotina è stata definita una droga ed è responsabile del cancro, soprattutto al polmone, perché lo Stato macina miliardi con il suo incontrastato monopolio? Non si tratta di spaccio di stupefacenti illegalizzato? Se con un'alimentazione corretta 30 malati di cancro su 100 potrebbero essere ancora individui sani, perché nelle scuole non si dedica un'ora alla settimana per l'educazione alimentare? La quasi totalità della popolazione si nutre con farina 00, bevande con aggiunta di zucchero, grassi animali, insaccati, alcolici, tutte sostanze non solo inutili e caloriche, ma dannose. È inutile dedicare trasmissioni televisive per raccogliere denaro dei cittadini, se poi i cittadini non vengono educati a prevenire la malattia. Marco. Grazie, caro Marco, per le sue indicazioni. Mi sembra che il punto più importante sia proprio quello dell'educazione, che dovrebbe cominciare nelle famiglie e proseguire nelle scuole e poi anche, perché no, sui luoghi di lavoro. È giusto e doveroso richiamare ciascuno alle proprie responsabilità, soprattutto verso se stessi. Ma non sono d'accordo sul proibizionismo per tabacchi, alcolici, magari anche per le merendine infarcite di grassi. Anche perché il problema di fondo della maggior parte dei casi è quello della quantità e della dipendenza. Proibire rischia di essere controproducente. È vero, le tasse sul tabacco sono uno sfruttamento del vizio, ma è giusto che ci siano. Ma almeno che il ricavato vada a quelle campagne di educazione e di sensibilizzazione che sono fortemente necessarie. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.